9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Buongiorno cari ascoltatori, guardate come si può differentemente presentare ai propri lettori e ai propri ascoltatori la missione di Monti all'estero. Allora, titolo, Corriere della Sera, Monti e gli investitori, ora comprate in Italia. Titolo invece, questa volta La Stampa, Monti, due punti, non garantisco per il futuro. Capite che è un'altra cosa, da una parte è un messaggio positivo, dall'altra come dire, dopo di me il diluvio. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no. Allora, in questo mondo come la mettiamo con il fatto che il fratello di Rin riesce ad avere accesso in Italia, malgrado tutti i controlli, malgrado tutta la magistratura, eccetera, eccetera, ai fondi europei? Oggi lo trovate a pagina 19 sul Corriere della Sera, fondi europei, contadini mafiosi, il cognome Rin non sospetti. Poi vogliamo dire che sbagliano a diffidare dell'Italia? Capite? Il fratello di Rin eppure ha preso per anni i contributi. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Mana, buon inizio di settimana, buon lunedì 19 di novembre. Oggi è San Fausta, un augurio a tutti coloro che si chiamano così. La puntata, come da nostro lancio oggi, tenta di guardare un pochino più lontano dalle cronache e da ciò che i giornali propongono oggi tra l'intervento di Obama rispetto all'incattivirsi della crisi per l'ennesima volta negli anni tra Israele e Gaza, a prescindere dal pressing di Monti, a prescindere dal seguito della convention di Italia Futura, CISL, ACLI e Sant'Egidio, che continua ad avere una grandissima eco mediatica sulla Stampa e su il Corriere, che sono a tutti gli effetti i due organi che si candidano a sostenere questo neocentrismo civico. E anche qua i giornali, diversamente, se leggete il Corriere della Stampa sembra che Casini sia molto a favore, se leggete Repubblica c'è un titolo che dice cala il gelo tra Montezemolo e UDC, i leader Ferrari sono spiazzati, la replica bolla mediatica. Comunque io, come è noto, mi limito a dire che sono a favore del rafforzamento di tutte le esperienze civiche, vedremo quanto di questo poi è sulla base di una chiarezza, perché dire semplicemente Monti da parte di molti mi sembra una specie di mero scudo, come devo dire, se non si dice per fare che cosa rispetto al prima e rispetto al dopo, si utilizza la credibilità internazionale di Mario Monti, che è molto forte, come una specie di scialuppa. Ma oggi parliamo di un tema di fondo della società italiana rispetto a queste contingenze. Parliamo della scuola e dell'università, del nostro sistema dell'offerta formativa, e ne parliamo perché alcuni interventi di uno dei nostri ospiti di oggi, del professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica e che scrive anche per il Sole 24 Ore, che intanto saluto. Buongiorno professor Vaciago. Buongiorno a tutti. Ecco, alcuni interventi del professor Vaciago sul mulino hanno attirato la nostra attenzione. Perché? Perché hanno due caratteristiche. Primo, sono, come quasi sempre capita al professor Vaciago, secchi, stringati, essenziali, non si perdono in considerazioni infinite, come spesso capita agli interventi su un tema così complesso come quello della scuola e dell'università. Secondo, indicano proposte, comparazioni e modelli concreti. In particolare, questi interventi del professor Vaciago, nell'indicare gap, la distanza che continua a separare interventi di riforma che pure ci sono stati negli anni in Italia, pensate per esempio alla riforma Gelmini, di cui siamo in una specie di cantiere attuativo, no? In un lungo cantiere attuativo, però gli interventi di riforma in Italia, scrive il professor Vaciago, se li paragoniamo al processo continuo di rapporti, di approfondimenti, di libri bianchi che in paesi avanzati vanno avanti da lungo tempo per monitorare come mettere mano e migliorare la qualità dell'offerta formativa, si tratti della Gran Bretagna o si tratti di altri paesi, bene, da noi questa continuità e serietà nel rimettere a verifica il sistema formativo non c'è. E dopodiché, dopo aver approfondito questi temi, Giacomo Vaciago pone alcune questioni su dei luoghi abbastanza intoccabili del dibattito sulla scuola e l'università italiana. Perché dice in buone parole, iniziative come il valore legale del titolo di laurea, che poi è stato ridotto a sondaggio, ve lo ricordate? La proposta di individuare il primo della classe o della scuola, derubricata a folklore. Ecco, tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, mentre invece ci sono alcuni punti di fondo che meriterebbero di essere affrontati con chiarezza, a costo di essere un po' impopolari. Uno di questi, la ripartizione tra risorse pubbliche e spese a carico degli studenti, cioè insieme di famiglie e il reddito futuro degli stessi studenti mediante prestiti. È facile dirsi a favore o contro? No, ma bisogna affrontarlo. Poi, come si disciplina la competizione all'interno del sistema formativo per attirare non solo gli studenti migliori, ma anche i docenti migliori, quindi con quale grado di autonomia vera, compreso il pagamento, la fissazione dei monte retributivi. È giusto avere un'offerta formativa parametrata per tutti o bisogna valorizzare i migliori? E come si fa a valorizzare i migliori? Ecco, su alcuni di questi punti tentiamo oggi di svolgere qualche considerazione, e io adesso do un secondo la parola a Giacomo Vaciago nel presentarvi però anche il co-ospite, che è Alessandro Chiesaro. Alessandro Chiesaro insegna letteratura latina alla Sapienza, è stato capo della segreteria tecnica al MIUR con il ministro Gelmini. Buongiorno professor Chiesaro. E lo sono con il ministro Profumo, aggiungo. Giustamente. Allora, professor Vaciago, a lei la parola. Ma il tema è enorme, vorrei solo precisare due cose. L'importanza del merito è fin banale dirlo, ma anzitutto il problema del come lo si misura. Nei paesi seri è molto semplice. Gli esami sono scritti, sono corretti da una commissione unica e sono soprattutto anonimi. Non può succedere che i bei cognomi prendano i voti migliori, come ahimè succede nel nostro paese da molto tempo. Attenzione, noi avevamo un sistema con filtri. Le riforme che citavi, Oscar, prima, dalla Gentile in poi, avevano una struttura per classi sociali. Il liceo classico ammetteva all'università e la composizione sociale di chi andava al liceo classico era predeterminata, salvo eccezioni. Era la scuola per la classe dirigente, come nei secoli scorsi. Poi abbiamo via via tolto i filtri, il che vuol dire liberalizzare, e mi va bene anche questo, però attenzione, se liberalizzi allora devi sostituire al filtro sociale la competizione, perché nei paesi dove si liberalizza la scelta la fa il mercato, diremmo, mutatis putandis, e quindi competizione tra scuole, competizione tra professori, competizione tra studenti, vinca il migliore. Ricordo che a Oxford, dove ho studiato, i voti sono ordinali. First è chiaro, è il primo decile della distribuzione statistica. Tutti i ragazzi siedono un giorno agli esami e il primo decile prende first. First è chiaro, è il primo della classe, ma non perché fai la gara dopo, perché l'esame è competitivo e nessuno copia perché imbroglia il compagno. Beh, discutere di queste cose nel nostro paese, non lo facciamo più da tanti anni, sarebbe il modo per incominciare a riflettere sullo scopo della scuola, che se guardo tutte le ultime riforme si occupa solo dei professori. Se guardi gli ultimi tre libri bianchi inglesi del Department of Education, discutono di studenti. Noi gli studenti ce li siamo dimenticati. Noi ce li siamo dimenticati perché naturalmente, però, se posso fare una battuta un po' polemica, professor Vaciago, sono i rappresentanti dei professori a volere che il sistema della formazione sia per chi ci lavora dentro e non per chi la frequenta e naturalmente anche per le loro famiglie, o no? Beh, ma perché lo trovi in tutto il paese? Anche quando si passa a discutere di economia e così via. Io ho partecipato al manifesto del Partito Democratico 5 anni fa, poi mi dimisi. Il ragionamento era: siamo un'economia di mercato, non ci sono solo i lavoratori, ci sono anche le imprese. Io chiedo la parola e dico: scusate, il consumatore mai? E quello è il manifesto dei valori del PD, andatela a vedere. Scrissi un articolo sul Mulino 2 anni fa. In cui dicevo: partito inutile, un'economia di mercato se non c'è la sovranità del consumatore è una presa in giro. Allora, anche per la scuola e la formazione, la sovranità del consumatore significa sistemi attraverso i quali il sistema dell'offerta si fa misurare, perché questo consente un orientamento da parte del consumatore, cioè dello studente e della sua famiglia, sistemi attraverso i quali il consumatore a propria volta si fa misurare e magari chiede anche di essere misurato con un occhio ai migliori, almeno questo poniamocelo come interrogativo, come si fa? Quindi un sistema che accetta di differenziare all'interno dell'offerta e di differenziare tra la domanda, cioè tra i consumatori. Perché, professor Chiesaro, tutte le volte che si prova ad affrontare questi temi su cui richiama l'attenzione Giacomo Vaciago, la reazione che parte dal mondo della scuola è di solito: ma come? Ci state prendendo in giro? Voi che avete tagliato le risorse? Noi abbiamo bisogno invece della scuola pubblica che sia il più possibile al servizio, alla promozione di tutti, il che significa più posti di lavoro perché ci lavora dentro. Sono problemi, come dice lei, sono problemi molto spinosi, questo è chiaro, e il problema delle risorse esiste. Certo, esiste poca attenzione a quel tipo di studi e di progetti, come ricordava prima il professor Vaciago, orientati più che altro sul bisogno formativo degli studenti e delle famiglie che gli stanno dietro, più che se le necessità del sistema. Vede bene che gli articoli di questi giorni sono sul numero di candidati al concorso per la scuola o per l'università, non sono necessariamente sul modello educativo che noi vogliamo portare avanti. Io non credo che sia un problema di proprietà delle scuole, se le scuole sono statali o sono private. Io credo che il sistema statale possa funzionare e debba funzionare meglio e non sia un problema di cambiarne, come dire, la natura giuridica. Sia un problema di introdurre anche degli accorgimenti non particolarmente difficili, come quelli che ricordava Vaciago. Personalmente io per esempio faccio solo esami scritti e con me molti colleghi, e credo che questo tipo di aggiustamenti possa essere fatto, debba essere fatto all'interno del sistema pubblico, senza necessariamente mettere in discussione questo caposaldo della nostra Costituzione, che porta poi con sé tutta una serie di problemi politici, credo, ingestibili. Secondo me il sistema pubblico può funzionare meglio, ci sono dei segnali di miglioramento ed è su quello che bisogna impegnarsi. Il sistema inglese, che io conosco abbastanza bene, ha portato negli anni ad una disaffezione delle classi medie e alla fortissima crescita dell'indebitamento per le scuole, per frequentare le scuole private. Non credo che quello sia una prospettiva utile. La prospettiva giusta è quella di tenersi il sistema pubblico, largamente pubblico, e farlo funzionare meglio. Allora, il problema è che si parla di coloro che stanno nei concorsi, ma si parla sempre come se la scuola servisse solo a smaltire precari. Io adesso qui non vorrei attirarmi le ire ovviamente di tutti coloro perché poi sono attivissimi su radio e televisione, coloro che rappresentano le molte migliaia di precari della scuola, che giustamente affermano la priorità del loro diritto al posto di lavoro. Noi oggi deliberatamente non ci occupiamo di questo. Io sono molto arrabbiato con gli studenti che sposano il punto di vista di chi affronta la scuola da questo punto di vista. Molti dicono in realtà gli insegnanti sono molto bravi anche a orientare ideologicamente gli studenti da questo punto di vista. A me, devo dire la verità, è capitato più volte di verificare che questi episodi capitano, cioè di insegnanti che inducono gli studenti a dire protestate perché a noi ci trattano in questo modo e così via. Però oggi deliberatamente non ci occupiamo di questo. Posso chiedere al professor Vaciago che valutazione dà per esempio tutto il dibattito che c'è stato intorno all'Anvur e ai temi della valutazione dei docenti nel nostro paese? Beh, anche qui il principio è corretto. Andava meglio specificate due cose. Una, che lo si avviava in modo sperimentale, perché se tu decidi oggi la lista delle pubblicazioni su cui devi aver pubblicato negli ultimi 20 anni per poter andare in cattedra, e beh, questo molti si arrabbiano, perché dice ce lo dovevi dire prima, ci sono ricorsi, come al solito quando ci guadagnano gli avvocati io mi preoccupo, e ci sono infiniti ricorsi. Il metodo della valutazione è fondamentale, ma deve essere chiaro, due cose devono essere chiare: uno, dei parametri sulle base dei quali i professori saranno valutati nella loro carriera, e l'altro, a cosa serve ciò? Perché, attenzione, oggi c'è ancora molta qualità nella nostra scuola e nella nostra università. Ogni volta mi domando, ma com'è stato possibile che questa qualità non è riconosciuta poi in niente? Cioè, mica i bravi professori guadagnano di più dei professori mediocri, mica le università migliori possono chiedere fees, cioè tasse scolastiche più alte alle famiglie, come succede in giro per il mondo. Quindi alla fine ti domandi, ma la qualità è casualmente distribuita sul territorio? Temo di sì. Temo che studenti e professori bravi siano mescolati, questo è il difetto nel nostro sistema principale, siano mescolati. Ma perché non accettiamo una graduatoria? Non accettiamo che qualcuno dica l'università A è meglio della B, che è meglio della C, e le tasse e i posti nei collegi e i servizi e i professori seguono di conseguenza. Attenzione che questo, come Schiesaro ben ricordava, del sistema anglosassone è soprattutto le fondazioni, le università private e le relative scuole che preparano a quelle università, dove privato vuol dire foundation, non vuol dire un signore che fa profitti come la Fiat, o meglio la Chrysler, perché la Fiat non ne fa. Esatto. Intendo dire, è privato nel senso che non è statale, però verso quel modello stanno andando anche gli altri paesi del continente come Francia e Germania, che hanno come noi la tradizione dello Stato che fornisce l'istruzione come bene pubblico. E quindi noi dovremo sempre più confrontarci con un mondo in cui Stato o privato accetta differenze di qualità e le ordina, le mette in ordine, se no la valutazione a che serve? A che serve? Non serve a niente, ed è da questo che dipende poi, a furia di praticare, io la chiamo la demagogia dell'uguaglianza, che si abbatte nel sistema della formazione il suo, o almeno quello che dovrebbe essere uno dei suoi scopi primari, cioè il fungere anche da ascensore sociale, senza graduazione del merito, come propone Vaciago, io sono d'accordo. Come si fa ad avere un sistema della formazione che serve davvero a far andare avanti i meritevoli a prescindere dal reddito? Senza di questo c'è mobilità sociale? La risposta è un doppio no, e di questo è prodotto la demagogia dell'uguaglianza. Come ricorda alla fine di uno dei suoi interventi Giacomo Vaciago, Platone scrive: la demagogia dell'uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione e anzi costringe tutti a misurare il passo sulle gambe di chi le ha più corte. Eccoci tornati qua a 9.36 primi 25 secondi, stiamo parlando oggi di formazione, di alcuni problemi di fondo che non sono quelli soliti, per cui purtroppo le piazze si riempiono di protesta e tra l'altro molte sono le preoccupazioni che le scene a cui abbiamo assistito la scorsa settimana siano solo l'inizio di proteste dure, anzi durissime, con l'inevitabile immediatamente sorgere di nuove incomprensioni totali. L'ipotesi che dal sede del Ministero di Grazia e Giustizia, anzi solo più di giustizia, si chiama così, siano stati sparati lacrimogeni sugli studenti, le fotografie sugli studenti sanguinati, le richieste pressanti che le forze dell'ordine si rendano identificabili quando sono nelle piazze, l'idea che la scuola italiana sia ogni anno il riprodursi matematico, per così dire, di puri scontri costruiti poi spesso su luoghi comuni reiterati, le risorse tagliate, i poveri studenti che vengono sacrificati e naturalmente i professori sempre al di sotto delle loro aspettative di avere posti di lavoro. No, oggi noi parliamo di come si fa differenza nella qualità, di come si accetta la disomogeneità, la diseguaglianza basata su criteri verificabili ex post perché stabiliti ex ante, su come su questo, accettando di essere differenziati per merito, sia chi compone l'offerta, cioè gli insegnanti, sia chi è la domanda, cioè i fruitori della scuola, i clienti, le scuole e le famiglie, accettino che la scuola sia in grado di dividere al suo interno, di farsi valutare, come di dividere e valutare chi la frequenta. Sentiamo una telefonata, Stefano da Roma, prego Stefano. Sì, salve, buongiorno. Tu volevo portare due testimonianze del mondo universitario, una in merito alla diminuzione della qualità proprio sul livello accademico e una sui ricercatori. Quella sul livello accademico è questa qui. Io ovviamente sono un laureato in ingegneria e ho notato che negli ultimi anni il numero di 110 che escono dall'università si è aumentato a livello esponenziale. Ho assistito a sessioni di laurea in cui 12 persone stavano per fare la laurea e 10 sono uscite con 110, di cui alcuni anche con la lode. Questo non parlo di università che si trovano in posti remoti d'Italia, ma per la persona Tor Vergata. E un altro caso invece è quello dei ricercatori. Mia moglie è una ricercatrice, è uscita sempre da ingegneria e ha fatto un anno di ricercatrice e 3 anni di dottorato. E oggi ha vinto un concorso da ricercatrice per un anno, quindi ha un contratto di un anno soltanto. Oggi si trova in Giappone alla conferenza di Kyoto per presentare il lavoro che ha fatto e ripeto, lei ha un contratto di un anno a 1200 euro, quindi anche la meritocrazia non è che ce ne sia molta in Italia. La ringrazio e arrivederci. Prego Stefano, ancora sentiamo Mario che ci chiama invece da Venezia. Prego Mario. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti e agli ascoltatori. La mia domanda si rivolge al professor Maciago che ha toccato prima un punto fondamentale, il cliente. Questa gente viene preparata per poi far che? Abbiamo decine e decine di laureati che non trovano un posto. E allora? Questa è la mia domanda. Bisognerebbe capire, vanno preparati a far che? Che mercato troveranno poi? Chi è il cliente che se li prenderà in carico? Grazie Mario, la mia opinione è che poi sull'orientamento siamo incapaci di farlo. La mia proposta sarebbe, la ripeto spesso, che le università pubbliche accettassero, e ancora una volta il problema sono chi li insegna, perché non lo accettano, di rilevare i dati di coloro che, conseguito un diploma o una laurea, ottengono un lavoro, a quale distanza di tempo e con quale salario medio. Questo è il criterio che io conosco, università americane, con cui si fa orientamento concreto alle famiglie. Questa roba viene considerata all'interno della nostra università come piegarsi a improprie logiche aziendali. Cosa c'entriamo noi col fatto che i nostri allievi poi non riescono a trovarsi un lavoro? Questo è ciò che mi dicono colleghi ordinari. Sentiamo ancora Silvia, che ci chiama da Pistoia invece. Buongiorno. Dunque, io chiamo perché il tema mi interessa molto. Io ho lavorato nell'università, ho fatto dottorato, ho fatto ricerca, ora sono fuori perché probabilmente perché insomma non ho il curriculum giusto o per i soldi, non lo so. Comunque, quello di cui mi sono accorta è che sia nella scuola, sia nell'università, sia nella scuola statale c'è la volontà di essere giudicati, diciamo, da parte degli insegnanti. Lei dice che c'è. No, non c'è. Ah, ecco. C'è molta resistenza a essere giudicati, a essere giudicato il proprio lavoro. Quindi non c'è proprio la volontà, perché non c'è, almeno da quello che io mi sono accorta, non c'è la volontà di dover rendere conto a qualcuno, come in qualsiasi azienda privata funziona. Insomma, se io faccio il mio lavoro, qualcuno che mi giudica, o qualcuno che mi giudica, o il mercato che mi giudica se io ho fatto bene o ho fatto male. All'interno della scuola e dell'università tutto questo, per quello che io ho visto, non c'è, assolutamente non c'è nemmeno la volontà. Tant'è che io propongo, penso che per esempio un tema sarebbe quello, per assurdo, di eliminare i concorsi. Tanto non hanno senso, perché tutti i concorsi che vengono fatti, quasi tutti, diciamo, via, non generalizziamo, anche all'interno dell'università, diciamo per esperienza diretta, sono tra virgolette abbastanza pilotati. Lei dice e inutile quindi continuare la ridda delle diverse riforme, dei criteri per il concorso nazionale, le sedi, le terne, le cose eccetera, sono tutti pilotati. Eliminare i concorsi, dice Silvia. Le levo la parola perché passiamo a Antonella da Brescia, perché poi altrimenti nel tempo poi ci manca la possibilità di tornare ai nostri ospiti, il professor Vaciago e il professor Schiesaro. Allora, Antonella da Brescia, prego. Buongiorno Oscar, complimenti come sempre per la trasmissione e quello che ci propone ogni mattina. Io, la mia è una voce un po' fuori dal coro, io insegno non all'università ma in una scuola superiore della mia città. Mi sorge questa riflessione da un po' di anni a questa parte. Il ruolo del docente e della scuola superiore pubblica in Italia qual è? Io ho visto perdere sempre di più questo ruolo in funzione di un'università organizzata più che per merito, scusatemi, per soldi, perché comunque alla fine queste ammissioni per attraverso i test sono non solo una spada di Damocle sugli studenti davvero bravi che non sempre riescono ad accedere all'università in funzione del fatto che hanno studiato sempre e sono usciti anche con delle buone e ottime valutazioni. E quindi già lì noi abbiamo perso molto credito, perché comunque le assicuro che in tanti licei della città, molto validi, gli studenti migliori smettono di studiare in quinta, le assicuro Oscar, smettono di studiare per la maturità e si preparano esclusivamente per i test. E questo già è un fallimento che noi abbiamo ottenuto. E questa è la prima riflessione. La seconda riflessione, parlo del mio lavoro nella mia scuola. Quest'anno volevamo fare un corso di inglese per aggiornarci, perché la riforma, piaccia o no, ci chiede l'insegnamento di una disciplina nell'ultimo anno in inglese. Ogni docente potrebbe insegnare la propria disciplina in inglese. Abbiamo chiesto di poter frequentare un corso organizzato dai nostri docenti di lingua all'interno della nostra scuola per poi accedere a un altro corso di livello più alto. Beh, le dico solo che i soldi stanziati dallo Stato per la formazione in questo ambito per ogni docente erano di 15-20 euro massimo a docente, perché ogni anno questi fondi, Oscar, vengono sempre più ridotti. Qual è l'offerta formativa che vogliamo dare ai nostri ragazzi se alla base c'è sempre uno Stato che ci impone una dieta, cioè che non dà fiducia, cioè che non dà importanza al fatto che comunque intorno alla scuola e alle nostre ore di lavoro fatte, le assicuro, con passione e con professionalità, poi non ci garantiscono mai una copertura su quelle attività extra che sono importantissime per la nostra formazione, che spesso viene fatta da soli a nostre spese, sempre, esclusivamente. Allora, stop anche ad Antonella, abbiamo queste un po' di temi in queste telefonate che sono venute dai nostri ascoltatori, e sulla voce di Jim Morrison io proclamo oggi per i nostri ascoltatori l'articolo migliore, a mio modestissimo giudizio, che trovate oggi, lo trovate sul supplemento Affari e Finanza di Repubblica, pagina 8 e 9, la saga del mattone di Stato. Mi complimento, se accetterà, mi complimenti con Adriano Bonafede, l'autore dell'articolo, che vi spiega ancora una volta come la tesi per la quale gli attivi dello Stato non possono essere ceduti per abbattere il debito pubblico, cioè perché lo Stato non può pagare noi la patrimoniale che vi chiederanno di pagare a voi, è completamente falsa. Leggete le due pagine, è Repubblica, quindi non sono dei fottuti liberisti, e troverete spiegati quali sono gli interessi che impediscono all'alta amministrazione dello Stato di credere, di farvi credere che si possano cedere i mattoni dello Stato. Pagina 8 e 9 degli Affari e Finanza di Repubblica. Perché in 25 anni nessuno è riuscito a vendere. E la tesi è molto semplice. Le resistenze delle amministrazioni pubbliche che usano i beni per una politica di potere, anche la sintesi mi fa esaltare. Chiusa parentesi e torniamo a questo punto ai nostri ospiti Alessandro Schiesaro e Giacomo Vaciago. Comincerei con Schiesaro per sapere cosa pensa in particolare dell'ultima telefonata, che ripropone il solito tema: ci tagliate i fondi della scuola, ci dite che volete qualificare l'offerta, ma noi poveri insegnanti abbiamo sempre di meno da parte vostra. Beh, i fondi sono stati tagliati e questo è sotto gli occhi di tutti. C'è da chiedersi però allora perché certe cose virtuose, certe cose potevano essere fatte, non erano state fatte quando i soldi non erano stati ancora tagliati. Io credo che concentrarsi sui soldi sia inevitabile, però non credo che sia l'unico problema. Io condivido il giudizio della collega sul fatto che la gran parte delle scuole probabilmente funziona bene. Credo anche che però ci sia un problema di trasparenza della valutazione, di pubblicizzazione della valutazione e di possibilità per le famiglie di fare delle scelte informate. Questo è un aspetto sul quale siamo sicuramente indietro, lo ricordava prima una docente. Un aspetto fondamentale è sicuramente quello degli esami. Gli esami adesso sono uno strano mescolamento fra aspetti nazionali e aspetti locali. È molto difficile usare gli esami di maturità per avere un quadro dettagliato e un quadro affidabile di cosa succede nelle scuole, e questo è un rischio soprattutto per le famiglie e soprattutto per gli studenti. Credo che una riflessione ulteriore sulla linea di quella che suggeriva prima Vaciago, gli esami nazionali più confrontabili tra di loro, più standardizzati, sia importante e credo che vada fatta. Mi sembra per esempio che la progressiva nazionalizzazione, per così dire, dell'esame di ammissione a medicina offra degli aspetti importanti in questo senso, perché si mettono a confronto i ragazzi di molte regioni insieme e questo dà oggettivamente dei dati sulla loro preparazione e sulla loro predisposizione agli studi. Professor Vaciago, ma per esempio della qualificazione in nome della diversità e del merito dell'offerta non è nemico giurato per definizione uno dei sacri luoghi comuni della scuola, e cioè il programma generale uguale per tutti su cui è impostato esattamente poi la didattica? Beh, certamente noi abbiamo una tradizione intellettuale, politica e amministrativa in base alla quale è comprensibile all'origine del nostro sistema scolastico, che era parte di un processo di integrazione. Attenzione, la storia dell'Italia non è la storia dell'Inghilterra o dell'America. Noi abbiamo sempre avuto un ruolo forte nel Ministero a garantire che le scuole fossero il più possibile uguali, e tutta la filosofia politica del nostro sistema scolastico era quella dell'eguaglianza garantita indipendentemente dal territorio e dalla classe sociale dei ragazzi. Quindi l'obiettivo era forte, e un secolo e mezzo fa era anche per unificare un paese che ereditava storie diversissime. Il problema vero è che sono passati 150 anni, adesso ti devi domandare se viceversa, esistendo mobilità sul territorio degli studenti, o dovendo esistere, non è meglio un sistema in cui le scuole migliori sono qui e là e gli studenti migliori si muovono a raggiungerle. Peccato che negli ultimi 20 anni noi abbiamo fatto il contrario, 90 università si sono organizzate su una rete nazionale di 300 quasi sedi a raggiungere le famiglie. In altre parole, siamo andati in direzione opposta a quella che facevano i paesi più seri, quella cioè del garantire che il ragazzo resta con la mamma fino a 30 anni e che l'università lo raggiunge, impedendogli quello che ancora quando ero ragazzo io era normale, e che quando tu avevi 18 anni e avevi fatto la maturità, poi andavi a sceglierti l'università di tua preferenza. Questo è un paese immobile che mi ricorda la notizia che hai dato, Oscar, prima, è molto divertente. Io ho fatto nel 96 presidente di una commissione per le dismissioni degli immobili e la mia esperienza è in un breve saggio intitolato «Se si chiamano immobili ci deve essere una ragione». Non siamo riusciti a vendere niente. Ma perché dovevi portarli via alle amministrazioni? Attenzione, i primi a non rispettare la legge sono stati i militari. La legge diceva che quando un'amministrazione non aveva più bisogno di un edificio, doveva restituirlo al demanio, che ne faceva altri usi. I militari ci hanno messo i cannoni e hanno impedito al demanio di riaverli indietro. Invito gli italiani di venire a Piacenza. 1978, si chiude l'ospedale militare, è vuoto da allora, ci piove dentro, è una tristezza, sono 40.000 metri quadrati buttati via nel pieno centro storico della città. Beh, cosa aspettiamo a ribellarci contro queste prepotenze dello Stato? Allora, e su questa domanda sulla quale io mi fermo perché di solito urlo fin troppo su questi temi, chiudo la trasmissione. Come avrete capito, con Giacomo Vaciago e con Alessandro Schiesaro abbiamo solo scalfito, cioè toccato in superficie, questo tema fondamentale attraverso il quale bisognerebbe, secondo me, che voi tutti accettaste di ragionare una volta per tutte. La differenziazione secondo criteri quantitativi, ex ante ed ex post, sia di chi ci sta dentro a lavorare, sia di chi frequenta la scuola e l'università, è l'unica maniera per restituirla di fondo, insieme a risorse adeguate, ovviamente, ma è il pilastro centrale per farne di nuovo uno strumento di ascensore sociale, di qualificazione del merito a prescindere dal reddito. È l'uguaglianza che produce il paradosso che solo chi ha soldi in famiglia potrà ripararsi dal paradosso di una scuola che, non selezionando i migliori, solo a chi ha soldi consente di andare all'estero per specializzarsi e poi trovare tutto ciò che in Italia, con quest'Italia seduta sui talloni e senza futuro, non si riesce più a trovare né col capitale umano né col reddito che scende, e quindi bisogna intaccare il patrimonio. Grazie a Vaciago e Schiesaro, appuntamento a domani.